come c'è una bella risposta della nostra cute, la pelle. Insomma, un bel bagno termale ci fa bene, ci rende belli, ci scalda, ci tonifica, ci fa sentire più leggeri, ci fa fare anche la pipì. Professore, grazie per essere stato con noi e per averci portato alle terme. Professor Barbanti, io vorrei, in chiusura di trasmissione, abbiamo ancora un paio di minuti, leggerle alcune sms che mi sono arrivate al 349-238-6666. Laura mi scrive: io sono assolutamente scoordinata, non sono mai riuscita ad afferrare una palla al volo e con l'età peggioro, è possibile? Cosa si può fare? Ah, beh, per questo è abbastanza difficile dare una risposta. La scoordinazione in parte è connaturata, l'unica cosa è l'esercizio. Se si riabilita un movimento perso, pensiamo a chi abbia avuto un ictus, certamente può essere migliorato un movimento poco aggraziato, entro i limiti della propria genetica però. Francesca: sono una persona molto precisa e mi piace avere la situazione sotto controllo. Sono apprezzata e stimata da amici e colleghi per questa mia dote che ho allenato, ma basta un contrattempo che mi assale un'ansia paralizzante. Cosa, come mai e cosa posso fare? Troppo sotto controllo, direi a Francesca, si rilassi. Ma senza dubbio sì, la meticolosità è un pregio apparente e un difetto reale. Mi aggancerei a quanto ha detto prima il collega di Pisa, e cioè noi dobbiamo avere delle reazioni migliori. Mettiamoci in un ambiente, si parlava prima di acqua, ma cimentiamoci con ambienti migliori, mettiamoci a volte in vacanza, stiamo con amici semplici che abbassino le richieste nei nostri confronti. Saremo più semplici, ci lasceremo andare e quindi riusciremo a stare meglio. Grazie professor Barbanti per essere stato con noi. Io vi saluto, vi do come sempre appuntamento a domani, ma vi ricordo che potete seguirci sul nostro profilo Facebook, abbiamo Twitter, seguiteci, scaricateci, e se non l'avete ancora fatto andate a leggervi il consiglio di oggi del nostro Daily Lab. Buonissima giornata da Nicoletta, vi aspetto domani dopo il GR delle 11.